Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Mamma no capasso nionna, sta frevi mi già sin dall'ossa, u tutto ca fora c'ha guerra, mi sento scianizza d'amori. Novembre 2012. Il neo governatore della regione Sicilia, Rosario Crocetta, chiede a un cantante siciliano di entrare a far parte della sua giunta, in veste di assessore a turismo e spettacolo. Lui è titubante, vuole davvero mescolarsi con i politici. Da sempre è una voce fuori dal coro che se la prende con il potere malato e con le istituzioni scorrette. Basti pensare a quella povera patria datata 1991, ma ancora attualissima. Per chi ancora non l'avesse capito, stiamo parlando di Franco Battiato, che alla fine accetta, rinunciando però allo stipendio, per essere libero in tutti i sensi, anche di rinunciare all'incarico. Scendo in campo volentieri, ma aggiungo un... No, scusa! Aspetto prima la fine, parzialmente, naturalmente, perché non posso cambiare mestiere. Non posso e non voglio cambiare mestiere. I commenti si sprecano, in molti citano quella frase di Up Patriots to Arms che dice «Mandiamoli in pensione i direttori artistici, gli addetti alla cultura», accusandolo di essere diventato uno di loro. Battiato non vuole titoli e definizioni, ma ride quando qualcuno ironico lo cita proponendogli di diventare assessore delle meccaniche celesti. Se lo criticano, fa spallucce. Uno, perché di quello che pensa la gente non gliene è mai importato un granché. E due, perché quello che più conta per lui è mettersi in gioco per aiutare il destino di una terra, la sua Sicilia. Metafora dell'Italia intera, secondo Sciascia. Il più grande peccato della Sicilia è stato ed è sempre quello di non credere nelle idee. Qui che le idee muovono il mondo non si è mai creduto. Ci sono naturalmente delle ragioni, ragione di storia, ragione di esperienza, però è questo che ha impedito sempre alla Sicilia di andare avanti, il credere che il mondo non potrà mai essere diverso da come è stato. Ora, siccome questa sfiducia nelle idee, anzi questa mancanza di idee, ormai si proietta su tutto il mondo, in questo senso per me la Sicilia ne è diventata la metà. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Sicilia, eternamente in bilico tra questioni irrisolte e le tracce di un passato meraviglioso, splendida nella sua decadenza, impossibile da vivere e difficile da lasciare. Tutto qui acquista i toni del giallo, per il sole che batte sui muri delle case scrostate, tra le quali ogni tanto spunta un antico palazzo baronale, per le strade di terra battuta che escono dal paese e sfiorano il mare, per i limoni, la cui fragranza si mescola a quella degli ulivi e dei gessomini. La Sicilia ha mille volti che rivelano anni di contaminazione. Ci sono passati tutti, fenici, greci, arabi, e ognuno di loro ha lasciato qualcosa. Forse è anche per questo che Battiato è andato a ricercare in giro per il mondo, dall'Africa al Medio Oriente, quelle che sono le sue lontanissime origini. Il mio così interesse per questo genere di cultura, per questi posti, non è intellettuale, perché può partire a volte da un impulso, il mio è genetico, direi. Mi sono sempre sentito legato, almeno da quando ho scoperto di avere questa passione, ma sono passati tanti anni, Dicevo, è un interesse fisiologico, insomma, arrivo qui e mi trovo immediatamente bene. Battiato è un artista che ha esplorato la musica a 360 gradi, dall'avanguardia a quella etnica, da brani che sembrano poesie a citazioni colte e immagini fortissime, fino all'invettiva politica. Non parla mai strettamente di sé, e se lo fa è sempre usando qualcosa d'altro come pretesto. Normalmente, come musicista, trasformo le esperienze personali o quello che considero un modo di intendere il mondo e una filosofia di vita, quello che vuoi tu, trasformo questo pensiero in musica, in comunicazione, come facendo questo mestiere, come una testimonianza del mio percorso, delle mie idee, che di volta in volta, grazie a Dio, cambiano o restano uguali. Comunque ho sempre fatto questo, quindi se mi entusiasma un autore sufi, se non scrivo una canzone, sicuramente qualcosa del suo pensiero lo metto in un testo di presentazione o passa attraverso il mio mezzo, che è la musica. Niente è come sembra, niente è come appare, perché niente reale. Battiato nella sua lunga carriera ha incontrato il cinema diventando regista, la pittura a partire dagli anni 90, si è scoperto raffinato compositore di opere teatrali, qualche volta non moltissime, è apparso anche in TV, ma la guarda poco. Non vuole sentirsi intelligente perché sta guardando dei cretini, dice. Se gli chiedono di definirsi, ha le idee molto chiare. Direi un musicista classico di essenza, prestato alla musica pop. Lo chiamano il saggio per la profondità delle sue analisi e per le risposte spiazzanti che, forte dei suoi studi, riesce a dare nelle interviste. Oltre che, naturalmente, per i testi delle sue canzoni. Lui, elegante e schivo, usa il sarcasmo in quel modo sottile che non tutti possono permettersi. Se fossi veramente saggio non starei con questi consimili. C'è chi dice che Battiato sia presuntuoso, che abbia quell'aria altezzosa di chi sa di essere colto e lo fa pesare agli altri, che sia antipatico anche. Ma andando a vedere i suoi concerti si scopre facilmente che non c'è niente di più lontano dalla realtà. Franco, come lo chiamano i suoi fan, cerca complicità col pubblico, fa battute, racconta storielle e aneddoti che ha vissuto durante la sua carriera. Un tale mi ha raccontato, mi auguro che qualcuno di voi l'abbia visto per confermarlo, comunque un signore serio mi ha detto che stava vedendo una delle nostre trasmissioni televisive e una di quelle ragazze messe sempre da quella parte politica ha guardato il pubblico e ha detto, mi viene in mente quella famosa frase di quella stupenda canzone, era molto emozionata, vagavo per i campi di tennis. E pare che qualcuno le abbia fatto segno. Lei era smarrita, ma poi non so come è andata a finire. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Riposto è una cittadina di 15.000 anime affacciata sullo Ionio, in provincia di Catania. Il significato del suo nome svela la sua originaria funzione di scalo commerciale. Uripostu, in siciliano vuol dire ripostiglio, cantina. Battiato, classe 45, nasce qui, ai piedi dell'Etna, tra la montagna e il mare, tra le mille contraddizioni di una terra a cui sente profondamente di appartenere e che è collegata a doppio filo con quei popoli che ci sono passati. Battiato sente presto il bisogno di andare a scoprire le sue origini e viene da pensare che probabilmente se non fosse stato siciliano la sua ricerca sarebbe andata in modo molto diverso. Per me il risveglio così personale lo devo far risalire agli inizi degli anni 70. Una specie di sentimento così di apertura verso altre cose, verso altri mondi, interiori, esteriori. Da lì una specie di furia del viaggio. Ero giovane, avevo la possibilità di farne anche in condizioni disagevoli. Oggi sarebbe già un po' più difficile perché, sai, comincia una certa età. Battiato cresce circondato da figure femminili perché suo padre non c'è quasi mai, lo definisce distratto. A scuola va benissimo e i suoi ricordi sono gli stessi che hanno tutti i suoi compagni. Aquiloni, un muretto davanti al mare, la fontana pubblica per prendere l'acqua che è un vero e proprio centro per la vita sociale, importante quanto lo è ancora nella cultura araba. E poi ci sono la Domenica delle Palme con il sole, il ghiaccio aromatizzato con gli sciroppi, le mafalde con le panelle tenute in caldo in tegamoni d'alluminio e le focaccelle, delle specie di polpettine di riso da rigirare nello zucchero. Per divertirsi qualche corsa a far la gara chi arriva primo, la strummola e il rovè con le noci. Quelle più dure battono le altre quando tutte verranno colpite da un sasso. Ma c'è una cosa che distingue Franco da tutti, la sua passione precoce per la musica. Addirittura mi dicevano che mi vedevano scrivere della musica senza che io sapessi niente, così. Ma il destino degli esseri è così. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Il papà di Battiato c'è e non c'è. Spesso è in viaggio, torna a casa ogni tanto e dagli Stati Uniti un giorno gli porta una chitarra. Mia madre, mia nonna, sì, io ho vissuto nel femminile. Mio padre lavorava, veniva, stava 3-4 anni e poi riandava via. E devo dire che anche malvolentieri, e poi quello che mi ha comprato la chitarra, perché lui suonava la chitarra ma non sopportava l'idea che io facessi musica. Avevo 11-12 anni, avevo già studiato un anno di pianoforte all'età di 6 anni, continuavo a chiedere dall'età di 3 anni di farmi suonare strumenti, ma però questo ha rafforzato ancora di più, che mi hanno indebolito. Per cui poi però mio padre è morto durante gli esami di maturità e io sono diventato professionista proprio dall'anno dopo, da quando sono andato a Milano, sì, a 19 anni. A uno che sogna di fare il musicista, la Sicilia sta presto stretta. Poche occasioni d'incontro, pochi scambi. E così, dopo aver conseguito la maturità al liceo scientifico Archimede di Acireale nel 65, Battiato si trasferisce per un po' a Roma, per poi stabilirsi definitivamente a Milano. È una città che pulsa in questi anni, che fa sentire la sua voce dal buio dei locali jazz, che ride nei cabaret, che parla d'arte nei caffè di Brera. Era una città viva. Poi sono arrivato sotto le vacanze di Natale, un po' prima, verso i primi di dicembre. Quindi ho vissuto questo delirio, perché eravamo in pieno boom economico, ricordiamoci, di strade illuminate. Non ero mai uscito dalla Sicilia, per intenderci, no? Quindi era come in una favola di Dickens, no? Il tutto. Senza soldi, senza... E stavo benissimo, devo dire. Non mi sono mai scoraggiato. Certe notti per dormire mi metto a leggere e invece avrei bisogno di attimi di silenzio. Una nuova città, una nuova vita, la possibilità di fare musica. A Franco Battiato, arrivato a Milano a 20 anni, non serve nient'altro per essere felice. Il suo primo lavoro è curioso. Firmandosi ancora Francesco, pubblica due singoli per la rivista Nuova Enigmistica Tascabile, che per un periodo ha proposto come allegati dischi di canzoni celebri, interpretati da cantanti poco conosciuti. Intanto forma anche un duo con un suo compaesano, Gregorio Alicata. Alicata è stato già pianista di Edoardo Vianello e ha avuto successo come autore nel brano Tremarella, grande successo degli anni 60. Come vibrato una molla mi viene la tremarella ballando il cer. Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Gli ambulanti. Così si fanno chiamare Alicata e Battiato. Si esibiscono in un repertorio di canzoni di protesta e, visto il periodo di subbuglio che anticipa il maggio parigino, si piazzano davanti alle scuole e alle università. Pantaloni a zampa, capelli lunghi e occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Sono sfacciati, entusiasti, suscitano molta curiosità nei passanti. A volte anche in passanti molto speciali. Siamo al primo magnifico incontro di Franco Battiato, casuale come tutti i più grandi incontri della sua vita, forse proprio per questo così speciali, perché frutto del destino. Insomma, succede che un uomo, vedendolo tutto intento a cantare per strada, vada a parlargli. È elegante, ha una giacca leggermente più grande della sua taglia, un'andatura addinoccolata. «Come ti chiami?» chiede a Franco. Lui non ha bisogno di ricambiare la domanda, perché lo ha già riconosciuto. è Giorgio Gaber. Una persona che aveva una qualità di ascolto che ho visto poche volte nella mia vita. Cioè, lui era quello che un altro diceva, non so come dire, la sua attenzione era massima, non si distraeva mai. E interveniva dicendo, perché? Dici, molto stimolante per uno che ha voglia di chiacchierare, diciamo. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Giorgio Gaber segna profondamente il destino della carriera di Battiato, perché il primo a credere in questo ragazzo siciliano con l'accento marcato che cita i grandi poeti e si diverte a sperimentare. Gaber propone i brani del duo alla Dischi Ricordi, ma il disco viene bocciato dopo un provino in sala di incisione. E così, un po' per sconforto e un po' per destino, gli Ambulanti si separano senza rancore e Battiato decide di continuare da solo. Torna in scena ancora Gaber, che è troppo convinto del talento di Battiato per mollare il colpo e viene premiato dalla sua tenacia. Riesce a convincere quelli della Jolly a metterlo sotto contratto, inserendolo nel filone di protesta che sta andando molto di moda. Gaber invita Battiato al programma che conduce con Caterina Caselli, Diamoci del Tu, dove nella stessa puntata c'è ospite un altro giovane cantautore sconosciuto, Francesco Guccini. Proprio per non confondere i due Francesco, Gaber propone a Battiato di farsi chiamare semplicemente Franco. Fu il mio primo produttore, tra le altre cose. Cioè, da un certo punto in avanti siamo stati solo amici, ma... fu uno delle prime collaborazioni, fu con allora Dai, lui andava al Festival di Sanremo quell'anno e allora mi disse, senti, io trovo difficoltà a comporre la strofa, ho solo l'inciso, e allora dai le cose giuste tu le sai. Ero molto fresco, avevo una vena proprio veramente spudorata, quindi in 5 minuti feci la strofa, così ero molto fresco a quell'epoca, insomma. Anche oggi però non mi posso... e poi cominciò con la produzione, poi feci anche gli arrangiamenti più avanti, una volta che io avevo fatto successo già, perché siamo negli anni... avevo già fatto tanti dischi, devo dire, siamo nella seconda metà degli anni 70, feci gli arrangiamenti di Polli d'Allevamento, che fu uno spettacolo incredibile, perché era di una violenza Giorgio in quello spettacolo lì, senza precedenti però. E così, poi eravamo, negli anni 80 invece giocavamo a carte, a poker, sempre facendo le 6-7 del mattino, è stato un periodo magnifico. Anche Ombretta Colli in quel periodo era strepitosa. Un cambio di etichetta, dalla Jolly alla Philips, coincide per Battiato con un primo periodo romantico, canzoni facili, commerciali. Poi, improvvisamente, la svolta, verso una musica decisamente più sperimentale. Un po' è perché non sopporta le pressioni della sua casa discografica, ma soprattutto è per via della sua urgenza di ricerca. Perché il desiderio primigenio, primario, è sempre stato lo stesso, la ricerca, il... gusto, la voglia di scoprire il perché di questo viaggio. Questa è, in sintesi, la mia carriera, insomma. Eternamente in cerca di risposte, o forse piuttosto di domande, Battiato si butta a capofitto nell'elettronica. Album dai titoli come Fetus, Pollution e Click gettano il suo pubblico nella confusione più totale dopo le ballate d'amore. Adesso è a metà strada tra l'avanguardia colta e i canti rivoluzionari, tanto che nel 75 è con Guccini e gli altri al Parco Lambro, al Festival del Proletariato Giovanile. Magrissimo, look da barricata che si confonde con quello di tutti, qui gli vogliono bene. Ma altrove non viene sempre capito, anzi. Ma devo dire che se mi trovavo all'interno di Festival Pop, e quindi, cioè, in uno spazio in cui dovevi condividere con altri, ero sempre fischiato, come regola proprio. Avevi mezz'ora a disposizione, venivo prima di qualcuno e dopo qualcun altro, giusto? E la gente non accettava, perché all'epoca cantavo pochissimo. Le uniche cose che cantavo erano effettate attraverso un microfono che andava dentro un amplificatore, che andava dentro degli echi, che, cioè, era una sonorità assurda per la gente, insomma, no? Invece quando mi esibivo da solo anche al Parco Lambro lì, ho fatto tanti concerti, magari verso mezzanotte, l'una di notte, con queste fasce sonore la gente apprezzava molto, ma dovevo essere da solo, non so come dire, cioè che sapevano che tu da quell'ora a quell'ora suonavi e magari ecco, non c'era qualcosa di commerciale prima, allora sì, lo accettavano. In questo periodo sperimentale, dove a farla da padrone sono difficili suoni sintetici accompagnati da testi altrettanto ermetici, Battiato lavora con Roberto Cacciapaglia. È lui, il suo secondo magnifico incontro. E anche in questo caso a combinarlo è stato il destino. Milanese del 53, Cacciapaglia è stato uno dei primi a usare i computer in ambito musicale, anticipando di gran lunga tendenze future. Partendo da una base classica, ha messo in scena una vera e propria arte senza confini, fatta di contaminazioni e suggestioni sacre. Naturale per uno come Battiato rimanere affascinato da un session man di questo tipo. Con Cacciapaglia Battiato perfeziona i suoni elettronici che lo affascinano, grazie a un complice nell'uso delle tecnologie più spinte. Roberto, curioso anche più di Franco, lo asseconda in ogni sua richiesta strana, suggerendogli a sua volta soluzioni ancora più sopra le righe. A nessuno dei due importa granché del pubblico, o meglio, non nella maniera tradizionale. Insieme vogliono soprattutto scoprire le infinite possibilità della musica, mescolare gli stimoli. I concerti, come racconta Alessandro Pomponi nel suo volume dedicato a Battiato, prendono una piega decisamente originale. Qualche applauso di cortesia fa da sottofondo all'ingresso sulla scena di un singolare personaggio. Quasi invisibile in volto, nascosto da un paio di occhiali da sole smisurati, Battiato, con un abbigliamento a metà strada tra il figlio dei fiori e un tecnico della NASA, comincia ad armeggiare con una tastiera appoggiata sulla sommità di quattro cassette di acqua minerale rovesciate. L'operazione richiede qualche minuto, dopodiché l'artista, senza proferir verbo alcuno, partorisce un accordo che dà il via all'esibizione. Un fiume di note scomposte comincia a farsi strada. L'esibizione appare immediatamente fuori da ogni schema. Battiato non propone canzoni, ma nemmeno una suite in stile rock progressivo. La sua performance consiste semplicemente in un assolo di VCS3 al quale, nei momenti di maggiore enfasi, sovrappone la propria voce usata come strumento, ma con tono monocorde. Gli spettatori sono perplessi. Chi ritiene che quei timbri alieni siano la giusta cornice sonora per l'ennesimo trip? Chi si allontana glorificando i Pooh? Chi fa volare una lattina vuota che si infrange nel backstage? Battiato continua imperturbabile, assorto nella sua musica. I magnifici destini. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Ai magnifici destini siamo alla fine degli anni 70 e Franco Battiato, siciliano di Catania che a Milano ha trovato la sua strada, sta facendo musica decisamente sperimentale. Eclettico, colto, raffinato, affascinato dall'Oriente e dal misticismo, dopo un periodo romantico è passato a un'elettronica che per il pubblico risultava quasi incomprensibile. Adesso però è arrivato il momento di ritornare alla canzone. Siamo nel 79, quando esce l'album L'era del cinghiale bianco. Coltivo tanti giardini. Sono un traditore per costituzione. Sentire qualcuno che da 40 anni canta sempre la stessa canzone, direi che forse è meglio così. Meglio non riuscire su un genere che ripetere una menata simile. Una commissione composta da diverse personalità della musica, tra cui Renzo Arbore, giudica L'era del cinghiale bianco il miglior disco dell'anno. L'anno dopo il successo è replicato con Patriots, titolo preso dal singolo A Patriots to Arms. I temi, impensabili per la musica italiana fino a questo momento, fanno appassionare un pubblico sempre più vasto. Battiato mescola il dialetto siciliano con l'acustica, la poesia con l'invettiva politica, la letteratura italiana con gli echi della cultura araba che tanto ama. Studenti di Damasco, alberghi a Tunisi, piramidi d'Egitto ed esoterismo. Ho iniziato a interessarmi della cultura araba all'inizio degli anni 70, ho fatto l'Ismeo di Milano, ho studiato per 3 anni arabo, così come ho fatto Poi ho vinto anche una borsa di studio per andare a perfezionarmi a Bourguiba e siamo negli anni nel 77 in cui firmo il contratto con la EMI, dovevo decidere se fare il disco o andare lì, ho preferito fare il disco, naturalmente. Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul. Stessi palazzi addosso al mare, rossi tramonti che si perdono nel nulla. Battiato è uno che sceglie, che va per la sua strada, indipendentemente da cosa ne pensano gli altri. Decide con chi suonare, che cosa scrivere e dove tenere i suoi concerti, perché non vuole lasciare niente al caso. È coraggioso quando comincia a portare la musica etnica all'interno delle sue canzoni. E alla fine il successo di pubblico gli dà anche ragione. Forse l'aneddoto più bello della mia vita fu a Çanakkale, in Turchia. E c'era un festival di musica etnica, io all'epoca ero giovane e pazzo della musica etnica, quindi avevo visto tutti i miei miti di seguito: Albania, Macedonia, Bulgaria, tutti, capito? Grecia, dico tutti, Azerbaijan, Uzbekistan. Quindi ho detto, beh, è un'occasione fantastica, quindi vado agli organizzatori e dico, io sono musicista italiano. Sì, ormai il casting è fatto, no? Sì, però se ti va di cantare alla fine a mezzanotte, come no? A mezzanotte, di cosa hai bisogno? Una tastiera, niente soldi, non voglio soldi. Una tastiera, mi propongo una tastiera. C'erano 3.000 persone, era una specie di anfiteatro così. Allora parte il primo pezzo, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, e c'era uno che suonava la viola, claudicante, no? Che suonava insieme ad altri due e rappresentava la Turchia. Poi arriva l'Albania e c'era uno con un tamburo e questo con la viola, no? Poi la Macedonia e c'era uno con un piffero e lui con la viola, e dico, che è sta sola qui, no? Cioè, sempre lo stesso che faceva tutto. E poi questa musica mi aveva veramente disturbato proprio. Quando è arrivato il mio momento, dico, è il momento di far pulizia. E questa è la prima. Quindi metto un accordo con la sinistra, chiudo gli occhi e mi concentro, ero dentro di me. Alzo a poco il volume, saranno passati, ci è passato un mezzo minuto. Quando mi sono alzato non c'era più nessuno, cioè, ma nessuno. Saturday night, I'm a dreamer. I can't live without you. On my home lies a photograph. La fenomenologia di Battiato ha la sua consacrazione nell'81. I suoi testi, che parlano di danzatori, mistiche, meccaniche celesti, antichi miti, lo rendono un artista unico nel panorama musicale italiano. E non solo. Esce La voce del padrone, che Rolling Stone mette al secondo posto dei 100 migliori album italiani di sempre. Da Bandiera bianca a Cucurucucù, il suo repertorio comincia ad arricchirsi di tutti quei pezzi che diventeranno un classico e che non potrà mai più rifiutarsi di fare ai concerti, nemmeno oggi che sono passati decenni. Centro di gravità permanente, orecchiabile e solo in apparenza facile, nasconde in realtà forti influenze, dalle teorie filosofiche di Gurdjieff, filosofo, scrittore e danzatore mistico armeno. Battiato ha tradotto in canzone il pensiero del maestro, che predica un insegnamento da applicare nella vita quotidiana. Beh sì, ho sempre pensato che quelli che le parrocchie, quelli che ti legano, lì bisogna scappare da questi, sono molto sospetti. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... L'affetto di un certo pubblico, diciamo così, che faccio sempre fatica ad accettare, in qualche modo per anche salvaguardare la mia integrità tengo sempre a distanza. Poi lo devi riconoscere. Alcune canzoni che sono considerate sempre, come dire, elitarie, invece cantate da tanta gente, trasformano questo dato, e questo è interessante. Il pubblico, il suo pubblico, su questo Franco Battiato si interroga spesso. Non gli interessa compiacerlo a tutti i costi, anzi. Battiato non è un personaggio di quelli che si possono definire umili, alla buona, alla portata di tutti. In alcuni casi gli dà anche quasi fastidio sentire dei cori da stadio su brani che lui aveva magari pensato come molto intimi. Eppure è anche un artista che riconosce e apprezza, e con gli anni sempre di più, il calore di chi lo appoggia. Non è che uno si alza al mattino e dice faccio quello che mi pare. Fai un qualcosa di artistico che deve avere la sua funzione presso il pubblico che poi va a fruire. Dall'avanguardia in cui nessuno lo capiva a un successo confermato dalle vendite che può fargli perdere la sua essenza. E questo è il rischio che corre Battiato all'inizio degli anni Ottanta. Sta molto attento a non tradire se stesso, continuando la sua ricerca personale. Incontra maestri dai quali ricava profondi insegnamenti che mette in musica e si tiene alla larga dai finti profeti. Ogni tanto incontra qualcuno sulla sua strada, qualcuno con cui vuole lavorare e crescere per scoprire di più se stesso e del mondo, per arricchirsi, altro che non cambiare idea sulle cose e sulla gente. Il terzo magnifico incontro del destino di Battiato si chiama Carla Bissi, ma da tutti si fa chiamare semplicemente Alice. Per Alice. Alice ha iniziato la sua carriera giovanissima con il suo vero nome, partecipando a vari concorsi. Nel 71, a 17 anni, vince Castrocaro con una personale interpretazione di Tanta voglia di lei, classico dei Pooh. E l'anno dopo è la volta di Sanremo, che non le porta grande fortuna. Bella, carismatica, con un timbro di voce particolarissimo caratterizzato da toni bassi, sembra avere tutte le carte in regola per sfondare. Eppure non ce la fa. Succede allora che Alice, come adesso si fa chiamare, cambia casa discografica e firma con la EMI. Le affiancano un nuovo team di lavoro guidato dal produttore Angelo Carrara, lo stesso di Battiato, ed è così che tutto comincia, ancora una volta, per caso. Lo stravagante catanese resta profondamente colpito da Alice. L'aiuta a perfezionarsi nella composizione delle sue canzoni. Il pezzo Il vento caldo dell'estate è il suo primo vero successo. Poco dopo è la volta del disco Capo Nord, pregno del tocco di Battiato che si occupa dei testi e degli arrangiamenti all'avanguardia. Nell'81 Alice e Battiato scrivono insieme Per Elisa. È lui a convincerla a partecipare a Sanremo e sebbene i pronostici la diano per perdente, la canzone vince. Cominciano i tour italiani ed europei e una collaborazione tra i due artisti che andrà avanti nel tempo. Con Franco Battiato c'è stato già un pezzo che ci ha legato l'anno scorso, Chanson Egocentrique, e dato che ha avuto un notevole successo in Italia, per noi è stata un'esperienza molto positiva, abbiamo riprovato. Chanson Egocentrique, self-centered song. Chanson Egocentrique, self-centered song. Il sacro va trovato nel reale, perché del sogno non sei sicuro. Il sogno è pieno di simboli, di messaggi sotterranei. Il sacro lo puoi trovare in una frazione di secondo nella realtà, basta avere l'attitudine alla religiosità, basta osservare un albero, insomma, senso stricto. A volte nella vita di Battiato il destino è andato a cercare magnifici incontri facendosi guidare dalla sicilianità. Come succede con Giuni Russo, scomparsa prematuramente dopo una lunga malattia nel 2004. Palermitana, con una voce che lascia il segno e una sensibilità che si incastra alla perfezione con quella del suo mentore. Entrambi fanno della ricerca uno scopo e sono affascinati dagli stessi maestri. Henri Thomasson, ad esempio, autore francese e fondatore della scuola ispirata agli insegnamenti del mistico greco-armeno Gurdjieff. Battiato si diverte moltissimo a fare gli arrangiamenti per gli altri che gli piacciono, ben inteso, lui non è uno che si lascia sedurre facilmente. Con Giuni, nome d'arte di Giuseppe Romeo, lavora all'album Energie, pura sperimentazione con un uso della voce a dir poco originale. Ma c'è una canzone che più di qualsiasi altra entra a far parte del bagaglio nazional popolare, Un'estate al mare. Forse per il titolo, forse per un'apparente semplicità che in realtà cela grande poesia, il brano viene frainteso dai produttori della cantante palermitana, che iniziano a portarla sulla strada dei motivetti balneari, così lontani dalla sua vera natura. La natura che Battiato, per primo, le ha tirato fuori. Nel 2003 Giuni Russo sta molto male. Si sta curando, ma sa che non ce la farà. Il suo sogno è andare a Sanremo con una canzone che Baudo ha già bocciato due volte a distanza di anni. Morirò d'amore. Giuni Bleff dice che ne vuole presentare un'altra, ma all'ultimo momento opta ancora per questa. Baudo dà l'ok. Lei chiama il suo amico Battiato e la fa riarrangiare completamente da lui. Dopo ben 35 anni di assenza, e grazie anche a Battiato che vince il premio come migliore arrangiamento, Giuni Russo corona il suo sogno, poco prima di morire. I magnifici destini. No time, no space, another race of vibration. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you, especially too. Ai magnifici destini siamo alla fine degli anni Ottanta e Battiato, da ormai diversi anni, si è rivelato uno dei più grandi artisti del panorama della musica italiana. Originale, esteta, affascinato dalle mistiche orientali, impossibile inquadrarlo in un genere, tantomeno prevedere quelli che saranno i suoi prossimi passi. La mia maestra, quando ero piccolo, si usava dalle mie parti fare la primina, si diceva, cioè saltare la prima elementare e andare direttamente in seconda. E avevo un'insegnante privata per questo, una maestra... la maestra media, che mi incontrò un giorno per strada e mi disse: ho un tuo tema della quarta elementare, non so, così, non mi ricordo, terza o quarta, che ti voglio dare. E in questo tema io scrissi, senza alcun motivo, io chi sono, punto interrogativo. Per cui più di così mi pare che... Se da un lato con l'Arca di Noè e Orizzonti Perduti continua il grande successo commerciale, sul fronte della ricerca Battiato dà il via a nuove sperimentazioni, non sempre strettamente musicali. Teatro, opera, film in cui rivivono echi di una Sicilia lasciata da tempo e mai dimenticata, omaggi ai suoi miti che non sono certo dei miti pop. A fare una cosa alla volta Battiato proprio non ce la fa. Nell'88 esce Fisiognomica, e grazie a questo album che il musicista catanese viene invitato, primo tra i cantanti di musica leggera, a tenere un concerto in Vaticano. Ci va, profondamente rispettoso di tutte le religioni, che indaga costantemente. Beh sì, quelli che seguono il mio lavoro sanno che questa è la mia attività principale. Da un certo punto di vista direi, anche se può sembrare una bestemmia, ancora più della musica, perché in realtà la musica dipende da quello che tu sei. E più tu migliori, più la musica migliora. Quindi sta quasi prima, dovrebbe venire prima, il superamento dei propri limiti, dei propri difetti, delle proprie miserabilità. E quindi il misticismo è la mia vita. Non potrei fare a meno di pensare all'esistenza futura, al mio passaggio. Conta più di tutto. Più di una stupenda canzone. E avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni. Dalle antiche credenze popolari siciliane ai riti pagani, dalle superstizioni al cattolicesimo, per arrivare ai mistici indiani, Aurobindo, Yogananda e i padri del deserto. Per Battiato indagare la sua essenza è fondamentale fin da molto presto. Con il maestro Gurdjieff, che gli fa conoscere la vera meditazione, arriva anche la consapevolezza di una musica non fine a se stessa, non semplice forma espressiva, ma strumento per completare un misticismo intimo e personale. Cioè, sinceramente, una volta che scrivi quello che devi scrivere, poi non è più nostro in realtà, no? Tu accetti tutti gli sviluppi possibili che non immaginavi fanno parte di questo gioco. 1991. L'album Come un cammello nella grondaia, registrato negli Abbey Road Studios di Londra, deve il suo nome a una citazione di un antico scienziato persiano che usava ripetere questa frase per raccontare l'inadeguatezza della sua lingua nel descrivere argomenti di carattere scientifico. Nel 93 invece, Café de la Paix rivive echi mitologici, storia romana, cultura popolare irachena, ma contiene anche riflessioni sullo spirito e le esigenze ultraterrene. Sono solo alcuni dei successi recenti di Battiato, tutti con un titolo e dei testi che sono il prodotto di anni di studi e approfondimenti nella sua casa alle pendici dell'Etna, che poi è la sua versione siciliana di Eremo. Eh sì, la sicilianità è un filo conduttore che unisce Battiato con alcuni dei suoi magnifici incontri del destino. Per quello con Manlio Sgalambro, il caso amplifica le radici comuni. Nel 94 si ritrovano entrambi, curiosamente, alla stessa festa, organizzata in onore di un poeta, siciliano, neanche a dirlo. Sgalambro non ha titoli né lauree da mettere sul biglietto da visita, eppure è uno scrittore di filosofia tradotto in francese, tedesco, spagnolo. Come ci sia riuscito è un mistero che nemmeno lui si sa spiegare. Fatto sta che i due iniziano a parlare e vanno avanti per ore tra una dissertazione sulle generazioni senza più passato, al giudizio sull'impero della musica. Sono molto diversi. Spirituale il primo, a tratti cinico il secondo, ma l'intesa è perfetta fin da subito. Il sentimento artistico penso che sia non soltanto un sentimento di creazioni, di cose, di parole, di colori, ma sia anche il modo come in sostanza lo viviamo. Io penso che ci sia questo qui radicato nel siciliano. Scatta un immediato feeling intellettuale che si traduce in una collaborazione ben più che costante. Battiato, dopo averlo incontrato, dice che non riesce più a scrivere senza di lui. E per Sgalambro inizia una nuova vita accanto alla filosofia. Nascono tutti gli album di Battiato dal 94 ad oggi, le sceneggiature per tre film e canzoni capolavoro come La Cura. Qualcuno legge nelle parole di La Cura un profondo senso di abbandono, ma secondo il parere di molti critici e non, si tratta semplicemente di una delle più belle canzoni d'amore mai scritte. Come altri brani di Battiato, probabilmente è una specie di mantra, una riflessione profonda che sembra quasi una preghiera sulla essenza dell'amore come cura e accompagnamento di un altro essere. È una canzone che non parla mai d'amore, innanzitutto, no? Che non usa la parola amore, voglio dire, non, ho sbagliato completamente, che non usa la parola amore, ma che in teoria ha voluto proprio alzare il livello della qualità di un innamoramento, che sia sessuale e no, perché non è che c'è solo quello, dico, l'amore che aveva Cosima Liszt per Wagner non aveva niente di sessuale in realtà, no? Era un amore come tra madre e figlio in realtà. Sì, perché poi specialmente negli ultimi tempi stiamo vedendo che questi uomini, che non si possono chiamare neanche tali, ancora vedono la donna come un oggetto da pagare, pur non spendendo soldi, non so come dire, no? E quindi siamo sempre nella zona dello stupro, che se ne accorgano o no, poco conta. Sa a cosa mi riferiscono. Cantante, regista, studioso, pittore perfino. La copertina di Fleur, per dire, l'ha fatta lui. Definire Franco Battiato musicista è quantomeno riduttivo. La figura, piaccia o no, rappresenta una voce fuori dal coro nella cultura italiana. Il suo ultimo album, Apriti Sesamo, ribadisce un successo che non ha bisogno di conferme, mentre la ricerca in parallelo continua, incessante. Battiato con gli anni si è sciolto. È diventato forse meno integerrimo, sicuramente più simpatico e disponibile, senza perdere di vista naturalmente le vie che portano all'essenza.